Daniele, ciao, sono io. Senti, al volo, che mi dai una mano, per favore? Che te con le parole sei forte. Senti qua, allora, 7 verticale, 3 lettere. Dice, è un'incognita. La seconda è una C. Che sarà? Ici? Ecco un inizio X di qualche frase X su questo brano X che sta su un disco X, senza cercare riffs o complicati tricks, ma stando attenti solo a non sbagliare mix. Ecco un inizio X di qualche frase X su questo brano X che sta su un disco X, senza cercare riffs o complicati tricks, ma stando attenti solo a non sbagliare. Per fare un sacco di clicks ci vuole un ospite X, dategli un foglio, una pic, fatelo urlare nel mic. Per un miliardo di stream almeno un paio di feed, fate partire sto beat, non voglio uscire dal trip. Mantenere un profilo passo passo, percorrere un tragitto passo passo, trovare significati mano mano, che escono contenuti piano piano. Può essere funzionale in qualche frase X, ripetere i concetti su questo brano X, ripetere i concetti quelli appena detti su un disco X, facili facili, stretti stretti. Nessuna idea fenomenale da comunicare, solo poche cose anche buttate lì, è solo una pagina imperdibile da conservare, che ce n'è già tante da confondersi, è solo storico primato da rivendicare, tutto nella media e senza iperboli. Nessuna merito ad emergere da questo mare, ma dove profondo puoi provare a emergerti. Ciao Daniele, sono Franchino. Senti, io l'ho fatto, ho fatto la strofa su X e c'ho avuto una serie di impicci, una serie di guai. Certo, credete tutto all'ultimo, come sempre. Comunque, disca una bomba. Tre brasileiri che mix, che un bel culo fa clic, sposa pra foto, fa x, che mistura de boutique. Cantando juntos, todo mundo junto, enquanto o mundo muda, misturando tudo. Cantiamo insieme che questo è un mare di meme. Up when we speak, è l'inizio del disco. Sto tizio c'ha un vizio, un incertisti di Cristo nel mix. Se già il passato l'hai visto, stupisce di fisso. Oh, you got it, you just sit down and listen. Quanto la sua che vela. Può essere funzionale, ripetere i concetti. Facili, facili, stretti, stretti. Senza inferboli, nessuna merito ad emergere da questo mare.